piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Puglia, Abruzzo, Marche, Liguria sono le quattro regioni in cui dall'8 giugno sarà possibile sperimentare l'app Immuni per il tracciamento dei contagi. Dopo ritardi e settimane di dibattiti e dopo il via libera del garante per la privacy, l'app è comparsa nei negozi digitali di Apple e Google e a breve anche in quello di Huawei. Qualche giorno dopo la sperimentazione l'app sarà operativa a livello nazionale. L'applicazione va impostata una sola volta. Dopo averla aperta e dopo aver letto tutte le istruzioni, si dichiara di avere almeno 14 anni, si sceglie la regione di residenza e si dà il consenso ad abilitare le notifiche di esposizione al virus. Dopodiché il sistema resta operativo anche quando l'app è chiusa. L'unica possibilità che ha l'utente è quella di caricare eventualmente i dati del proprio tampone in caso di positività. Siamo arrivati finalmente a poter usufruire dell'app Immuni. Ne parliamo da un tempo abbastanza remoto, è diventata operativa, è stata diciamo resa scaricabile dal 1 giugno, proprio in un momento in cui la percezione generale è che di Immuni non ce ne sia più bisogno, ma evidentemente le cose non stanno così. Sembra che il primo impatto sugli italiani sia stato quello di gradimento. 1 milione di italiani nei primi 2 giorni hanno scaricato l'app Immuni. Sembrano tanti, ma in realtà l'app, per essere efficace, occorre sia scaricata dal 60% delle persone che hanno a disposizione un telefono per poterla scaricare. E anche qui si aprono un'infinità di problemi. Noi questa mattina vorremmo innanzitutto confrontarci con il nostro pubblico per capire se siete tra questo 1 milione di persone che l'ha scaricata, che uso ne state facendo, anche se adesso ancora in una fase sperimentale, cosa vi aspettate, se state soltanto curiosi. Avete abbandonato tutti i sospetti, le circostanze che facevano sì che molti dicevano che poteva essere uno strumento di intrusione violenta nella nostra vita privata. Ancora questa mattina c'è un excursus su vari politici che dicono che loro non la scaricheranno. Abbastanza diciamo definita l'area politica, diciamo c'è Salvini, c'è la Meloni, c'è la Russa, anche Davide Farone che è Italia Viva, ma però diciamo sembra che ancora una volta, come ieri abbiamo detto, la mascherina che diveva in maniera manichea agli italiani, anche l'uso dell'app Immuni rischia di essere un altro degli oggetti simbolici che segnano comunque un punto di vista. Ma perché non sia soltanto ideologico questo punto di vista basato soltanto sul pregiudizio, noi questa mattina vorremmo per quanto possibile cercare di capire di più su quello che è al momento Immuni e su quello che diventerà. Divertente la polemica che è sorta al di là di ogni possibile applicazione di tipo informatico, del codice, dei livelli di sicurezza. Hanno subito protestato addirittura anche la ministra per le pari opportunità Bonetti per il fatto che nelle illustrazioni dell'app, che spiegavano come usare l'app, c'era l'immagine di una mamma con un bambino tra le braccia, un lattante, il papà stava allo smartphone, al computer a lavorare, a fare smart working. Mentre su questo si è appuntato l'apoteosi del politicamente corretto, come la mamma con il bambino condannata ad essere madre e il padre invece a lavorare, l'uomo lavoratore e la donna ancella dell'uomo lavoratore, tanto che in fretta e furia hanno dovuto cambiare l'iconcina, adesso bisogna scaricare un upgrade dell'app dove c'è il papà col bambino in braccio e la mamma che lavora, e qua protesteranno naturalmente tutto il fronte dei maschi selvaggi duri e puri. 800 24 00 24, l'avete scaricata Immuni? Cosa aspettate a scaricarla? Cosa vi aspettate soprattutto da questa app? Andrea Rossetti, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Gianluca. Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, è stato il nostro beta tester dell'app Immuni perché anche lui se l'è scaricata. Racconta la tua esperienza, Andrea. Sì, io l'ho scaricata per essere precisi 5 volte, quindi anche il numero di download, diciamo, non è francamente un dato significativo rispetto alle persone che effettivamente l'avranno installata, ma è un'app che fondamentalmente non fa nulla, nel senso che ho nulla che appare all'utente finale, nel senso che una volta che è installata, abbiamo scoperto ieri grazie alla ministra che funziona già da adesso, ossia funziona in una zona come la mia, io abito, adesso sono a Milano, insomma, no? Nel senso che se io dovessi in questo momento incontrare qualcun altro che ha installato per prova come me l'app Immuni, ci scambieremmo questi token, no? Che dovrebbero individuare, o meglio segnalare il fatto che a un certo punto siamo stati vicini per un certo periodo di tempo ed una certa distanza. Non succede niente, nel senso che è lì sopra, io non posso neanche disattivarla, cioè l'unico modo per disattivare l'app è o spegnere il Bluetooth, e questo vale sia per i sistemi Android sia per i sistemi iOS, oppure sui sistemi Android posso semplicemente disattivare la geolocalizzazione, perché Android è fatto in maniera tale che perché il Bluetooth funzioni deve essere attiva la geolocalizzazione, anche se effettivamente non geolocalizza. Quindi niente, è lì su uno dei miei cellulari, non sul mio cellulare principale, su uno dei miei cellulari, me lo sto portando in giro, insomma agli altri, sempre connesso in rete attraverso il cellulare principale, e aspetto di vedere che cosa accade. Non sono cellulari particolarmente nuovi, quelli che uso io ovviamente, e anche il mio cellulare principale non è uno di quelli molto costosi, insomma è un cellulare da 200 euro, e però per adesso funziona più o meno tutto. A volte quando apro fammi capire una cosa, scusami, sì. Andrea, tu non sei diciamo residente nelle regioni in cui ancora è già attiva la sperimentazione, come hai fatto a scaricarla? No, allora si può scaricare dal momento che non si viene effettivamente geolocalizzati, quindi tutte le parole di tracciamento in questo momento sono effettivamente un po' così, un po' insensate, io posso tranquillamente scaricare Immuni. La prima volta che l'ho scaricata, che cosa ho fatto? Ho finto di essere in Liguria e a Genova e ho installato tranquillamente. Poi ieri sera in realtà ho seguito l'audizione della ministra Pisano alla commissione, e la Pisano ha detto tranquillamente che in realtà l'app Immuni funziona dovunque, cioè indipendentemente da dove tu l'abbia scaricata si scambia i dati. Perché questo? Perché in realtà siamo, almeno quello che ho capito, siamo in una fase di sperimentazione, o meglio, siamo in una fase che precede la sperimentazione, si sta semplicemente testando il fatto che l'app funzioni bene, no? Che l'app giri in maniera regolare su tutti i cellulari. La sperimentazione vera e propria comincerà unicamente l'8, che è lunedì se non ricordo male, e sarà effettivamente nelle 4 regioni indicate. Peraltro è ancora un po' bizzarra che almeno in una delle 4 regioni indicato se la Puglia sono, se non ricordo male, 2 o 3 giorni che ci sono 0 contagi nuovi segnalati, quindi insomma non so fino a che punto potrebbe essere. Esclusa la Lombardia da queste regioni, che è la regione più colpita al momento. Esclusa la Lombardia, sì, perché qui dipende molto dalla volontà dei governatori, dei presidenti della regione, e quindi sono state selezionate queste regioni, sono la Liguria, la Puglia, il Friuli si è sganciato e le altre due sinceramente non me le ricordo, però insomma per adesso non c'è ancora. Diciamo la sperimentazione non è attiva. Però scusami, trovo abbastanza singolare dovrebbe essere un'app, si chiama Immuni, che deve in qualche maniera salvaguardarci e aiutarci a mantenere comunque una situazione di sicurezza rispetto alle persone che sono segnalate appunto come contagiate dal coronavirus, e non viene usata in quello che ancora, al di là di ogni sbagliato ed errato e sospetto pregiudizio, è l'area in cui si verificano più contagi e più casi. No, non è insensato in realtà, Gianluca, perché siamo nella fase sperimentale, sono Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, ho recuperato il dato, le 4 regioni della sperimentazione, e non è insensato perché il vero problema, o meglio, ciò su cui si dovrebbe concentrare la sperimentazione, di cui peraltro non sappiamo ancora nulla, cioè non sappiamo il metodo, non sappiamo nulla, però ciò su cui si dovrebbe concentrare è la possibilità di falsi positivi, perché effettivamente potrebbe capitare che uno si riceve sul suo cellulare una notifica che gli dice che è stato vicino a qualcuno che è potenzialmente contagioso, in realtà non è vero, e tu immagina se accendi l'app la mattina, accendi il tuo cellulare la mattina, ti arriva una informazione di questo genere. È chiaro che in una regione come la Lombardia, dove effettivamente il numero di contagiati è molto maggiore, la presenza di falsi positivi genererebbe secondo me maggior panico, no? Effettivamente se tu sei a Roma e ricevi una cosa di questo genere dici vabbè, no, magari dice è poco probabile, è probabilmente un falso positivo. Se la ricevo io che sto a Pavia, lavoro a Milano e ho i parenti che abitano a Somalia, che è vicino a Codogno, che come tutti sanno è il epicentro di tutto quanto, beh, se la ricevo io un po' mi preoccupo, no? E quindi secondo me è razionale l'idea di non cominciare da una regione sicuramente a rischio come la Lombardia. Quindi è un approccio graduale, che dovrebbe lentamente farlo entrare negli abitudini. Senti, 1 milione esatto. di persone che l'hanno scaricate sembrano effettivamente tante. Nella media dello scaricamento delle app non sono tantissimi. Se considera essere il 60% delle persone attive che la deve scaricare, sono ben meno 1 milione del 60% degli italiani che potenzialmente potrebbero scaricarla. Anche qui troppe scuse. Che è immune, che ti suona? No, non suona niente, non sono io che sto suonando. Io non sento niente. Nemmeno io. Sento un rumore di sottofondo, di un telefono che sta digitando, non sono nemmeno io. Non sono io, giuro. No, ho perso il filo, scusami Gianluca. La domanda era... La domanda Pronto? Era, diciamo, in percentuale, mi dicono che potresti essere te con la guancia che digiti sul telefono per sbaglio. Sei tu che parlando per caso... sono io. Ecco, sì. Ecco, adesso okay. No, fai solo attenzione. La percentuale non è così elevata. Allora, non è elevata e il dato in realtà è ambiguo. Perché? Perché in realtà a volte dicono 1 milione di scaricamenti e a volte 1 milione di utenti. Ti ripeto, io come che sono un utente unico l'ho ormai scaricata 5 volte per fare un po' di esperimenti. Quindi questa è la prima cosa da capire. La seconda cosa è il valore assoluto non è altissimo, è appunto perché dobbiamo arrivare a 60 milioni. Peraltro abbiamo un esempio del primo stato al mondo che ha effettivamente messo in funzione una app di questo genere, che è l'Australia, che ha cominciato a diffondere su tutto il territorio australiano il 24 aprile. Nei primi 2 giorni hanno avuto 2 milioni di scaricamenti. E poi si sono fermati fondamentalmente, nel senso che ho guardato pochi giorni fa, il dato era 2 milioni e mezzo, quindi non c'è stata poi una conseguente crescita, no? Come quella che probabilmente gli sviluppatori si immaginavano. Quindi sì, quindi il titolo va un pochino interpretato, il titolo è entusiastico, certo. 1 milione di italiani hanno già scaricato, sì. In realtà non significa assolutamente nulla in termini numerici. Sentiamo esatto. Giulio da Roma, intanto 800 24 00 24, mi piace sapere qual è la vostra percezione, quest'app arriva in un momento in cui non vi ponete più il problema o vi rendete conto che in realtà può essere un supporto utile e importante anche in questa fase di gestione del coronavirus. Giulio da Roma, buongiorno. Buongiorno, e io ho provato qualche giorno già ieri, l'altro ieri, ho provato anche oggi, e io ho un iPhone 6 e mi dice no, devi avere minimo iOS 13, perché io qui sull'iPhone 6 non mi fa più gli aggiornamenti 12 e 4. Non lo può più aggiornare, diciamo. Esatto, questo telefono io non lo posso più aggiornare, non posso scaricarlo, non mi sembra logico. Però ti funziona, tu dici perché devi essere obbligato a cambiare l'iPhone e comprarlo appunto, nuovo. Cioè, a me per tutto il resto della vita mi funziona, non ho capito perché per questa cosa non mi deve funzionare. Cioè, insomma, il minimo dovrebbero almeno fare una forzatura per queste cose utili per la società, insomma. Però questo mi sembra un po' difficile. Andrea Rossetti, c'è un po' il sospetto che il fatto che si muova su piattaforme che comunque vendono anche telefoni, che sia fatto in modo che se non è il telefono più aggiornato, l'ultima versione del telefono che può aggiornare il software, in realtà o non scarichi Immuni o devi comprare un altro telefono. Purtroppo è un problema di sicurezza, nel senso che non è saggio in generale avere un telefono di cui io non posso aggiornare il sistema operativo, perché mi espongo effettivamente al rischio che i miei dati vengano, che il mio telefono venga clonato, che i miei dati vengano sifonati. Quindi effettivamente, come con telefoni che sono abbastanza costosi, magari uno ci mette un po' più tempo a cambiarli, però è sconsigliato, sconsigliatissimo utilizzare sia computer sia telefoni che installino computer con sistemi operativi che non siano aggiornabili. Il problema è unicamente questo, non si tratta di forzare, Apple non lo farà mai, tenete conto che se avete Android 5 non ce la fate, no? Da Android 6 in avanti riuscite ad installare questa applicazione, ma se avete un telefono che ha Android 5, che potrebbe essere un telefono che avete comprato nel 2013, non funzionerà più neanche lì sopra, ma è un problema di sicurezza, non si può accedere ai problemi di sicurezza su dati importanti come questi, francamente. Quindi anche diciamo che è un'occasione, adesso non voglio sembrare un fomentatore all'acquisto di materiale elettronico aggiornato, però è una maniera per uscire dalla fase umarellica della gestione anche del proprio smartphone. Dice giustamente il professor Rossetti, se il tuo telefono è di una obsolescenza tale che non puoi più nemmeno aggiornare il sistema operativo, vuol dire che a quel punto non ti serve più, non dovrebbe servirti più, a meno che tu lo usi soltanto per chiamare i nipotini o per guardare le previsioni del tempo o per giocare al solitario con le carte, allora tientelo pure. Però è già un telefono che comunque riduce notevolmente i margini di sicurezza di chi lo usa. Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Melog. Un gruppo di scienziati e ricercatori europei si è diviso su quale fosse la strada giusta da prendere per tracciare la gente. Quella di un sistema decentralizzato e dunque della trasparenza, o quella della centralizzazione, e cioè consentire che una massa di dati importanti diventi il patrimonio occulto di pochi? Dalla piattaforma del Consorzio Europeo per la Tracciabilità, PEPT, spariscono i documenti relativi al protocollo decentralizzato più trasparente. E su Twitter i ricercatori si scambiano accuse pesanti. Nel consorzio c'è chi ha interesse a far passare il modello centralizzato. E lo stesso PEPT sarebbe il cavallo di Troia di Hans Christian Bose, svizzero di nascita e tedesco d'adozione, con il pallino dell'intelligenza artificiale. La sua Arago è diventata un affare da milioni di euro. Boss è anche consigliere digitale della cancelliera Angela Merkel e sta cercando di infilare nei governi europei la sua tecnologia di tracciamento attraverso Bluetooth. Questo è Report, che insinua che ci possano essere dei problemi rispetto alla privacy per una gestione centralizzata dei dati di Immuni. Poi sentiremo con il nostro esperto, professor Andrea Rossetti, docente in informatica giuridica alla Bicocca di Milano, se questo è un rischio che corrisponde a realtà. Tanto ringrazio Roberta Frisani in regia da Milano e Giorgio De Luca in assistenza a Milano. Da Roma, come al solito, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da casa sua. Sentiamo qualche ascoltatore prima. La domanda che ponevo agli ascoltatori: avete scaricato Immuni? Pensate di scaricarla? Avete presente? È stata sufficiente la campagna di informazione? Qual è lo scopo e l'utilità di questa app? Siete tranquilli? Siete sicuri che non rappresenterà un pericolo per la vostra privatezza, per i vostri dati personali? Claudio, provincia di Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, sì. Io volevo intervenire in merito all'app, premetto che non credo di scaricarla, che la scaricherò, e volevo sapere perché praticamente non hanno adoperato un supporto hardware anonimo, nel senso che un supporto che dovrebbe sostanzialmente dialogare con altri suoi simili tramite Bluetooth e poter inviare un messaggio al suo simile. E questo supporto acquistarlo dal giornalaio in modo proprio anonimo. Questo mi permette. Sì, sì, è una domanda tecnica a cui faccio rispondere subito allora Andrea Rossetti. Hai capito da chi è il nostro ascoltatore, Andrea? Sì, ho capito, ma se già è difficile che le persone scarichino Immuni dal sito, è gratuita, ancora più difficile sarebbe che qualcuno andasse in edicola, certo, a comprare, o anche per pochi euro. Dovresti portarti in giro un altro oggetto, no? E questo effettivamente, il rischio di dimenticarselo a casa sarebbe molto alto. Invece lo smartphone ce lo portiamo ovunque, anche in bagno, diciamo la verità. Quindi effettivamente lo smartphone è l'oggetto che noi abbiamo su di noi sicuramente per più ore al giorno durante una giornata. Ma infatti le nostre funzioni vitali si stanno tutte concentrando attraverso delle app, non abbiamo altre addirittura il POS entra dentro il telefono, addirittura il TomTom entra dentro il telefono, cioè tutte le cose che richiedevano degli apparati esterni si stanno centralizzando nel telefono, infatti. Esattamente, la radio si ascolta per telefono ormai, insomma, perché... L'altro dubbio che ci ha messo con la puntata di Report di cui abbiamo mandato uno spezzone sulla gestione centralizzata dei dati, spieghiamo esattamente qual era l'oggetto del contendere in questo caso. Allora, ci sono due modi in cui il tracciamento può funzionare, diciamo, per semplificare un po'. Il modo decentralizzato è quello nel quale tutti i calcoli vengono effettuati sul mio cellulare, cioè dal server centrale mi arriva la segnalazione che è stato contagiato ed è sul mio smartphone che avviene il calcolo che mi permette di sapere se io sono stato vicino a questa persona oppure no. Nel modello centralizzato invece questo calcolo avviene sul server centrale e poi viene solo successivamente inviato, in caso di positività, al mio smartphone. In realtà ci siamo buttati, dico io stesso, insomma, anche sulla scelta decentralizzata perché sembrava garantire maggiormente la privacy. Non è una scelta che hanno fatto tutti i governi, ad esempio l'app francese che è in fase di sperimentazione anche lei è centralizzata, perché come hanno rilevato forse un po' tardivamente alcuni esperti di sicurezza, quella decentralizzata pone dei rischi forse maggiori alla sicurezza dei nostri dati, nel senso che dobbiamo, ogni singolo cittadino deve farsi carico dell'aggiornamento del suo sistema, in maniera da essere sempre abbastanza certo di avere le misure necessarie per scongiurare determinati attacchi dei cattivi. Invece in un sistema centralizzato ovviamente la sicurezza sarebbe stata fatta centralmente e quindi probabilmente le misure che si sarebbero potute adottare sarebbero state più efficaci, però io credo che in ultima analisi sia una scelta politica, cioè in un governo se i cittadini si fidano molto del loro governo, di chi li comanda, allora sono probabilmente disposti ad accettare una centralizzazione dell'app, centralizzazione dei dati che effettivamente fa sì che lo Stato acceda a una serie di informazioni che magari uno non vuole rivelare. Invece se si ha meno fiducia nei propri governanti, probabilmente la scelta decentralizzata è quella che verrà meglio digerita dai cittadini. Anche se, vedi, tu hai dovuto impiegare con estrema chiarezza 2 minuti e mezzo per spiegare questa cosa e non so quanti abbiano detto ma che ci importa a noi, è un po' difficile entrare in merito alla possibilità di discernere una scelta in base a questi dati nell'utente medio, che in realtà si scarica una tonnellata di app senza nemmeno chiedersi esattamente come funzionano e cosa fanno all'interno del suo telefono. Attilio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta, una domanda pratica. Cioè, a parte tutti i tecnicismi, dove stanno i dati, chi li gestisce, tutte queste storie qui, ma in pratica io scarico Immuni sul mio telefono. A questo l'ha scaricata punto, finora? No, non l'ho ancora scaricata. Scarico Immuni sul mio telefono. A questo punto che tipo di informazioni mi dà? Cioè, quando passo vicino a Nicoletti mi dice guarda, stai passando vicino a una persona. Poi però informazioni di tipo è malato, non è malato. Però non ti dice che è Nicoletti, non ti dice che è Nicoletti. No, infatti ho detto passo vicino a una persona e questa mi dice guarda, sei vicino a una persona che c'ha installata l'app Immuni, ma poi informazioni sul tipo è malato, non è malato, rischi, tu rischi, non rischi. Io le mie informazioni su come le mie condizioni le metto sull'app o no? Cioè questo ma no, no, mi chiarissimo. Andrea, vediamo se riesci a rispondere con altrettanta chiarezza a questo ascoltatore. Non funziona così. Ok, allora supponiamo che io incontri una persona contagiata, ok? Io non so che è contagiata, ma non lo sa neanche lui in questo momento, perché sennò dovrebbe essere in quarantena, ok? Allora succede che tra qualche giorno questa persona che io ho incrociato, peraltro a una certa distanza e per un certo periodo, va in ospedale. In ospedale viene riconosciuto come contagiato, ok? A questo punto parte la procedura informatica, ok? I dati del contagio vengono inseriti in maniera pseudonima nei server centrali e da lì vengono poi diramati nel mio cellulare. Il mio cellulare, diciamo, una persona viene taggata in quanto contagiato, poi in forma anonima, ma c'è il tag in quanto contagiato, se no non funzionerebbe, è chiaro. E soprattutto, e vengono taggati anche tutti i posti in cui è stato. Ok, se io l'ho incontrata sul mio cellulare, io avrò uno di questi token, di queste monete che l'app dà in automatico. Allora, io ricevo i dati al server centrale, sul mio cellulare si fa questo confronto. A questo punto mi si dice, attenzione, tu sei entrato nell'arco degli ultimi 14 giorni, non ti dico nel percorso di una persona contagiata. Esatto, ha incrociato. E quindi scusami, la fondamentale è il data entry, cioè chi mette dentro i dati in questa app, perché io immagino che Deve essere preciso. Metti caso, io per assurdo vado, per assurdo, può capitare, vado a farmi un tampone e mi dicono: guardi, lei è positivo al coronavirus, vada a casa e stia in quarantena. Però prima mi chiederanno chi ha frequentato, chi ha visto, dove è stato. Riempiranno un database con tutte le informazioni utili ai miei spostamenti negli ultimi 15 giorni. Poi metteranno nel sistema dell'app tutte queste informazioni. Quindi immagino una mappa simile alla mappa di Google con le pedate con scritto Nicoletti dovunque è stato. Allora, attenzione, quello che tu hai descritto è il contact tracing tradizionale, cioè quello che viene fatto tramite un'intervista. Ok, allora io trovo il contagiato, lo intervisto, cerco di capire dove è stato negli ultimi 14 giorni. Il vantaggio di usare un'app dovrebbe essere quello che io posso fare a meno di questa fase, anche perché francamente io ad esempio non mi ricordo dove ero 12 giorni fa, non ho la minima idea, no? Allora, in realtà l'operatore sanitario, una volta che ha individuato la persona contagiata, fa in modo che i dati presenti sul cellulare della persona, che ha raccolto quindi i token, no, le monete di tutti coloro che ha incontrato, vengano caricati nel server centrale. Qui, a tutti gli effetti è un tracciamento, anche se dico non ti traccia, mi traccia. No, è come segna tutte le mollichine che io semino per strada ogni volta che incontro una persona, rifà allora, un percorso. Allora, i singoli token, le singole monete non sono, le singole monete che ci si scambia quando si incontra con un altro con l'app non sono geolocalizzate. Ok, quindi tracciare. Se sovrapponi una mappa di Google, eccoti geolocalizzato. No, ma non puoi proprio sovrapporla, Gianluca. Non puoi proprio, cioè, perché il dato geolocalizzante non è caricato a nessun livello, neanche troncato in nessuna maniera. Questo sembra abbastanza accertato. Quindi è impossibile tracciare. No, in realtà ci sono degli studi che mostrano come raccogliendo un po' di questi dati, insomma, un po' di questi token che vengono lasciati in giro da queste app, raccogliendole e con un po' di sforzo si può effettivamente individuare la persona. Non dimentichiamolo, i dati sono pseudo-anonimi, non sono davvero anonimi. Ok, quindi questa è la cosa fondamentale. Però diciamo che il tracciamento è una cosa piuttosto complicata. Cioè, è una cosa che richiede una certa perizia tecnica e anche una certa, un certo tipo di macchine. Insomma, non è proprio una cosa che puoi fare con lo smartphone, che io, ad esempio, che ho uno smartphone abbastanza così. Io immagino che questo lo farebbe o potrebbe farlo soltanto chi vuole dimostrare per gusto di scassinamento che l'app ha dei bug, perché nessun cittadino smetterebbe a perdere tempo a individuare le persone tracciate, faticosissimo, lungo e poi inefficace, cosa ti importa alla fine? Esattamente, non è impossibile questa cosa, eh? Quindi alla fine appunto diciamo che la paura del tracciamento è la paura minore, io direi, il timore minore che dobbiamo avere, non è impossibile ma è davvero complicato. Quello che a me invece continua a preoccupare sono i dati, nel senso che i dati che vengono raccolti, cioè il fatto che uno sia contagiato o entrato in contatto con uno contagiato, sono dati che effettivamente vengono raccolti. Allora, ci fermiamo su questo punto, però Andrea, devo dare un attimo un'informazione del traffico e riprendiamo proprio dal punto che tu hai lasciato sospeso, che era un pochino il rovello che mi hai sempre esposto tutte le volte che abbiamo parlato a Melog di questa app. Ci fermiamo un istante. Melog. Stiamo parlando con Andrea Rossetti, che è docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, sull'app Immuni, sollevando delle riflessioni, dei dubbi e dando anche conferma di quelle che sono le domande che ci fa il pubblico sulla modalità di uso, la modalità di scaricamento, le necessità per poterne usufruire. Daniela da Padova, buongiorno. Buongiorno. Ho chiamato perché io sono una di quelle che ha già scaricato. Oh, finalmente, una del milione di italiani. Esatto, siccome non ho sentito nessuno, adesso mi faccio sentire, siamo un milione, non tanti, ma ci siamo. E niente, io ho scaricato l'app Immuni perché comunque ritengo che se la tecnologia può venirci in aiuto in una situazione che tutto sommato è abbastanza di gravità, cioè la salute viene investita, quella che è la cosa primaria nella vita, che è la salute, ben venga. Poi, certo, ci sarà qualche problema di privacy, non privacy, e regaliamo tutta la nostra vita a tanti altri enti che se ne approfittano in maniera anche abbastanza spudorata, che questo forse, diciamo che l'obiettivo è talmente, per me almeno, è talmente prioritario che se anche ho qualche problema poi di privacy o qualcosa di questo genere, beh, secondo me è secondario. Quindi lei l'uso che ne ha fatto finora, l'ha scaricata e cosa ha visto? Sì, fino adesso in realtà l'uso è certo, ancora è in fase di sperimentazione, non le segnalerà esatto. Nulla. Esatto, cioè in questo momento poi io sono in Veneto, non è una regione che viene in cui è utilizzata, la versione è una versione beta, in questo momento quello che mi fa vedere effettivamente, l'unica cosa che vedo proprio bene ma che guardo poco sono le statistiche aggiornate giorno per giorno, sa, sui numeri che ci danno tra contagiati eccetera. Sì, cioè, quelle comunque arrivano da altre mille fonti, non è che c'ha bisogno l'app di Immuni. No, esatto. No, e poi c'è una funzione che io vedo che ogni volta mi dà, in teoria, l'indice di rischio di aver incontrato qualcuno, mi dà sempre zero, perché in questo momento... Beh, perché ancora, nella sua regione non è attiva la sperimentazione. Bravo, esattamente così, quindi le dico, adesso come adesso non sto vedendo cose... Ma però lei era curiosa, l'ha scaricata per vedere cosa succedeva scaricandola, ecco, no, l'ho scaricata proprio perché ritengo che sia una cosa che va fatta, ecco. Posso fare un piccolo test su di lei, signora? Provi. Daniela da Padova, un piccolo test. Sì. Lei si è accorta che c'era questa immaginetta che ha fatto tanto discutere, si è mosso un ministro alle pari opportunità, della mamma col bambino in braccio e il papà al computer, le ha dato fastidio? Guardi. No, è tanto che ho sorriso quando prima ho sentito lei che lo diceva, perché ho detto guarda te, non mi sono neanche accorta, si vede che proprio non era così fastidiosa. È stata una questione politica su questo fatto, sì. Velocemente cambiato l'icona, adesso bisognerà riscaricare l'aggiornamento, al prossimo aggiornamento riappare il papà col bambino in braccio. Giuseppe, provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno, Giuseppe. Sì. Buongiorno. L'ascolto. Premetto che sono atecnologico, cioè mi definisco così, però andiamo alla sostanza dei fatti, no? Qui bisogna avere, dopo tre mesi di lockdown, bisogna avere un atteggiamento, come posso dire così, evangelico, kantiano, nel senso bisogna comportarsi bene sperando che tutti gli altri lo facciano. Io ho scaricato l'applicazione Immuni. E finora ovviamente ho guardato soltanto come funziona e devo dire che certo aspetto di non essere chiamato, perché è un po' come l'assicurazione, no? La fai ma speri di non utilizzarla mai. Ora, cioè la tiene sperando di mai avere l'alert che ha incrociato in maniera pericolosa qualcuno che potrebbe essere per lei motivo di infezione. Matteo, ma scusi, Mario da Pescara, Mario, poi parliamo con Andrea Rossetti. Mario da Pescara. Sì, ecco, allora io sono stato felicissimo di scaricare l'app, sono abruzzese, quindi una delle regioni scelte. Lei diciamo è in una situazione diciamo fortunata, perché l'ha scaricata in una regione in cui sarà diciamo sì, la sperimentazione attiva. C'è un piccolo problema, l'ho scaricata per me, sul cellulare di mia moglie, dei miei due figli, ne ho quattro, due con cellulare, dei miei suoceri, però a un certo punto mio figlio, papà, ma il Bluetooth è attivo? Come è attivo? Ah, è vero, mi sono informato, deve stare sempre il Bluetooth attivo. E certo, questa è follia, perché mio figlio mi ha detto assolutamente la batteria si scarica velocemente, c'è sempre questa fame di energia di batteria, e quindi tutti i miei figli hanno tolto l'app e purtroppo anch'io l'ho tolto, perché effettivamente il mio telefono non è nuovissimo e la batteria non supporta il Bluetooth sempre acceso. Il Bluetooth succhia abbastanza. Oh, Andrea Rossetti, questo altro punto, nelle abitudini soprattutto dei ragazzi che ne fanno un grande uso del telefono, obiettivamente se non lascio il Bluetooth attivo l'app non funziona. Un ragazzo che esce, va in giro, dice ma io preferisco staccare Bluetooth, che a me non serve in questo momento, e magari godermi di più le altre app, sto più su TikTok e meno su Immuni. Questo problema è stato valutato secondo te? Allora, in primo luogo bisogna ricordare che l'installazione dell'app è vietata a quelli che hanno meno di 14 anni e non importa se c'è il consenso dei genitori, questo è uno scoglio che andrà superato, ma in questo momento i minori di 14 anni non possono installare l'app, non dovrebbero installare l'app, quindi qui sta la diligenza del genitore. Se il cellulare non è particolarmente nuovo, non è particolarmente o di fascia alta, effettivamente non c'è quella modalità di Bluetooth a basso consumo che è quella che viene molto pubblicizzata. Anche sul mio, che come dicevo prima è un cellulare di fascia medio-bassa, effettivamente questa funzione non c'è. E Bluetooth consuma moltissima energia. Hanno calcolato questa cosa, però gli esperti hanno sostenuto che non dovrebbe incidere più di tanto sul funzionamento, sulla durata complessiva della carica quotidiana, ma sembra che non sia così in effetti. Insomma, io questo non so ancora stimarlo. Però se non hai questo un cellulare prodotto negli ultimi 3 o 4 anni, effettivamente il consumo di batteria potrebbe essere molto elevato, sì. Vediamo di entrare in una fase di chiarimento finale. Allora, qua, lunedì prossimo dovrebbe cominciare la sperimentazione. Esatto. Le persone che l'hanno scaricata cosa dovranno aspettarsi ogni giorno rispetto oggi a soltanto avere le informazioni sull'aggiornamento dei dati, che potrebbero avere anche attraverso altre fonti? Cosa dovrebbero aspettarsi e come dovrebbero comportarsi? Ma dovrebbero periodicamente aprire l'app per essere certi che non sia arrivata a loro qualche notifica di vicinanza con qualche contagiato. E a questo punto seguire le istruzioni, che non si sa ancora quali saranno, che dovrebbero apparire in maniera automatica per coloro che sono stati effettivamente entrati in contatto con qualcuno infetto. Ma qui non sappiamo ancora nulla, ripeto, perché non sappiamo la metodologia che verrà usata per la sperimentazione. Perché secondo me, ho parlato con alcuni ingegneri, il problema qui è quello veramente dei falsi positivi, quindi ci deve essere una sperimentazione mirata a questo, ma anche se lunedì comincia la sperimentazione, ad oggi non c'è un progetto della sperimentazione, non c'è una metodologia esplicita di come verranno testate le funzionalità dell'app. Quindi quello che dovranno aspettarsi coloro che abitano in queste 4 regioni saranno molti falsi positivi. Quindi state tranquilli, se decidete di installarla, state tranquilli, perché avrete comunicazioni che in questo momento probabilmente sono inattendibili, cioè è molto più probabile che siano inattendibili piuttosto che siano attendibili. Quindi nel caso malaugurato che vi dovesse comparire una segnalazione di positività, niente panico, contattate il vostro medico e tutto quanto, ma molto probabilmente, o meglio, seguite le istruzioni che vi verranno date, ma molto probabilmente non sta succedendo niente, è semplicemente un problema dell'app, è un problema di tarare l'app nella maniera corretta. Quindi diciamo in tutta la fase sperimentale è possibile che le persone siano avvertite di essere passate in zone perlomeno sospette, ma potrebbe essere un falso positivo, il che in effetti non è che sia molto rassicurante sul fatto, sull'efficienza poi dell'app. Bisogna aspettare un altro periodo di sperimentazione per essere finalmente sicuri che se l'app ti segnala che hai lambito una zona pericolosa, lo hai fatto veramente, non sia stato un falso positivo. Sì, l'app verrà rilasciata tra 30 giorni fondamentalmente, quindi non prima di fine giugno su tutto il territorio nazionale, una volta effettuata la sperimentazione. Per ritornare al caso australiano, appunto fu distribuita, ma la gente andò in panico, una serie di persone andarono in panico in Australia, perché? Perché appena installata l'app, dopo i minuti installata l'app, comparve una segnalazione di positività, che era un errore però, e anche qui però le persone, appunto soprattutto le persone anziane che l'avevano installata, sono effettivamente andate un po' nel panico, perché sono viste, no, con questa segnalazione, non hanno razionalizzato la cosa e quindi pensato che diciamo che l'informazione che diamo, la sigla ci porta via, dice ancora per un mesetto siamo in fase sperimentale, quindi tenete tutto con il beneficio del dubbio, quello che l'app vi rivelerà. Ci sentiamo alla prossima.